Valle Giulia ancora brilla la luna. E Paola prende la mia mano. Caduta per sbaglio. Come coltelli, come fratelli, perduti forse qui. Architettura albe cinesi di seta. Questa città sarà la musica che viene da lontano, sarà l'estate che brucia nelle vene, sarà il passato che ancora mi appartiene. Adesso tu sei qui, abbandonata, come se non mi avessi mai lasciato. Né mai tradito, sarà la musica che viene fa, sarà il profumo di questa città, sarà l'estate che spalanca le sue braccia sui nostri corpi come fosse una minaccia. Adesso, adesso. Questa città sarà la musica che viene da lontano, sarà l'estate che spalanca le sue braccia sui nostri corpi come fosse una minaccia. Adesso siamo qui.